Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di demografia, parliamo di popolazione, parliamo dei movimenti, delle nascite e purtroppo anche delle morti che caratterizzano la realtà italiana, ma la realtà globale possiamo dire. E lo facciamo perché la Fondazione della Sussidiarietà ha realizzato il proprio rapporto quest'anno proprio sulla crisi demografica e abbiamo con noi il presidente della Fondazione della Sussidiarietà che è Giorgio Vitadini. Buonasera Vitadini. Buonasera, buonasera. Allora, perché dedicare un rapporto della Fondazione della Sussidiarietà un tema, diciamo, così vasto, così complesso, così globale come quello della demografia? Ma perché io penso che non ci sia cosa che ci toccherà da vicino come il crollo demografico che avviene in Italia, perché il crollo demografico, visto che siamo in una trasmissione di economia, vuol dire meno gente che lavorerà e più gente che sarà da sostenere, e questo quindi toccherà ognuno di noi, ogni famiglia. Sarà difficilissimo con meno giovani che lavorano sostenere gli anziani e i disabili, sarà difficilissimo rilanciare il PIL. In certe zone del paese, poi come il sud, dove c'è un flusso migratorio nuovo dei giovani intellettuali laureati verso il nord, vorrà dire la difficoltà gravissima a darsi uno sviluppo. Quindi penso che questo non sia un tema culturale, ma sia un tema che fra un po' si toccherà in ogni famiglia, anche perché è uno dei temi più legati al desiderio. Se è vero che, come viene fuori dalla ricerca, fino a 39 anni le donne italiane sono quelle che concepiscono di meno in Europa, ma da 39 anni in poi sono quelle che desiderano di più avere un figlio. Questo diventa un tema che è legato, certo, anche alla felicità, al destino, al compimento. Per cui penso che quindi non possiamo ignorare questi dati drammatici, anche perché sono dati inesorabili. Se oggi c'è un crollo, come ci si è visto, il baby boom ha avuto effetti 20 anni dopo, dopo 20 anni ha questi effetti, quindi se non si rimedia è gravissimo. Ecco, il libro si apre proprio con un dato della sua introduzione in cui si fa presente che l'Italia sta già perdendo abitanti, ha perso 130.000 abitanti nel 2015, anche nel 2016 abbiamo in pratica 216.000 persone in meno in 2 anni. Forse non c'è la percezione direi da parte delle persone, da parte dei cittadini, di questa realtà, oppure si pensa che sia una realtà in fondo positiva, si è fatto per tanti anni una problematica di dire c'è nel mondo la sovrappopolazione, siamo in troppi, quindi si pensa che in fondo ridurre un po' le nascite non sia poi del tutto negativo. Vitadini. Ma bisogna considerare il dato globale. Lei pensi che i paesi del sud del Mediterraneo hanno la metà della popolazione sotto i 30 anni, noi invece abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più, quindi non è che la sovrappopolazione, che è un problema globale, si fa perché i paesi occidentali hanno meno popolazione. Noi abbiamo, anche perché, come si vede dagli studi demografici, c'è una progressione geometrica in positivo e in negativo. Quindi lo spopolamento dell'Italia non è che favorisce il fatto che in Africa si stia meglio, ma semplicemente vuol dire l'impossibilità allo sviluppo. Già abbiamo un PIL, per esempio si riflette poco sul nesso tra demografia e PIL. Noi che siamo drammaticamente aggrappati allo 0, per il PIL, non pensiamo che nel medio periodo il PIL diminuisce con l'invecchiamento della popolazione. Per non pensare poi, appunto, come dicevo prima, all'assistenza. Oggi noi ci possiamo permettere le badanti. Un domani, con la diminuzione demografica, io non so cosa sarà di chi sarà vecchio fra 20 anni. Non avrà più neanche quell'assistenza personale che nasceva dal fai da te, perché c'era un reddito nelle famiglie con i giovani. Ecco, quindi si tratta di raccontare in maniera giusta, diciamo, questa crisi demografica. Per esempio c'è un richiamo di Giancarlo Brangiardo all'interno del rapporto. Giancarlo Brangiardo, economista e demografo, che ha curato proprio questo rapporto, in cui si parla di sfida comunicativa per raccontare la crisi demografica sui media, e dedica anche il suo intervento alle cose positive che si possono fare. Ecco, da un punto di vista proprio della sussidiarietà, qual è la prospettiva che voi vedete per rilanciare, se possibile, la fertilità, rilanciare la natalità e rilanciare in fondo anche l'altro elemento che può portare a una crescita, che è una immigrazione ovviamente regolata, governata, Giorgio Vitadini? Beh, cominciamo dalla famiglia. È chiaro che il luogo da aiutare è la famiglia, perché certo si fanno meno figli per motivi di desiderio, per motivi di mancanza di ideali, e questo ma è anche perché è molto difficile fare i figli. Una delle cose da riflettere è la difficoltà estrema in Italia per una madre che lavora. C'è stato questo caso drammatico di questa donna che ha dimenticato il figlio in macchina, che è morto. È interessante, come hanno detto tutti i media, il messaggio che lei aveva mandato sulla sua pagina Facebook prima dell'evento. È difficilissimo essere madri e lavorare. Oggi una donna, giustamente anche per motivi economici, ma non solo, vuole lavorare, ma è chiaramente penalizzata, e questa è una cosa. Secondo, come dice un altro grande economista, Campiglio, che ha studiato questi problemi, negli ultimi 20 anni sono stati elevati 8 miliardi di aiuti alle famiglie, e quindi evidentemente anche uno che vuole fare figli fa fatica. Pensiamo che da questo punto di vista la Francia fa una politica opposta, perché fa una politica dei redditi elevata sulla famiglia. La famiglia cosa fa? Investe in capitale umano, quindi permette lo sviluppo della risorsa fondamentale per il lavoro, assiste gli anziani, risparmia. In Italia tradizionalmente compra la casa, quindi crea un luogo di base per esistere stabili. Nel momento in cui la famiglia viene messa come un problema ideologico dei cattolici, io sto parlando qualunque tipo di famiglia evidentemente, e non viene a supportata, è chiaro che questo è grave, mentre se viene supportata i risultati possono essere molto forti. Questo quindi riguarda sia le sovvenzioni, gli aiuti, ma anche la forma del lavoro, perché chi ha detto che una donna che lavora, che fa figli, è meno produttiva? Trovare soluzioni che aiutino la conciliazione del suo lavoro, secondo me, aumenta anche la produttività. Quindi io penso che il primo punto di aiuto sia proprio il sostegno alla famiglia, non concepita con un problema sociale, ma con un problema di leva economica. Ecco, in questo senso è interessante quanto afferma all'interno del rapporto Paolo Bonomi, in cui ci sono delle isole felici demograficamente, ci sono dei comuni dove in cui questi valori appunto demografici diventano positivi, perché sono realtà che riescono ad attuare delle politiche di sostegno, di conciliazione tra famiglia e lavoro, quindi con gli asili nido, quindi con tutte le strutture che possono essere necessarie. Quindi non è inevitabile questo caso. No, questi dati dimostrano che è possibile, non è che solo il governo deve pensare, ma se proprio in termini sussidiari ogni comune concepisce la vita non come individuo Stato, che è la grave crollo di certi partiti politici di oggi, ma come per esempio famiglia all'interno di una comunità, quello che supporta, abbiamo tante risposte a macchia di leopardo diverse. Allora vuol dire che senza neanche grandi investimenti, ma con un'intelligenza, noi riusciamo a costruire luoghi che cambino. L'altra cosa che lei accennava, che riprendo, è l'idea dell'immigrazione. Noi, certo, abbiamo l'idea dell'immigrazione come semplicemente un prendere un peso, ma pensiamo alla Germania cosa ha fatto. Ha preso dell'immigrazione un valore positivo, sostituendo i quadri tedeschi che non ci sono, supportando un certo tipo di intervento, quindi aiutando l'integrazione. Anche perché sennò, voglio dire anche un'altra cosa, non è che gli immigrati ci fanno superare il problema demografico, perché come dimostra Blangiard, dopo una generazione diventano come noi, non fanno più figli, cioè voglio dire diventano tra virgolette italiani, mentre invece allora anche lì occorre fare una politica selettiva sull'immigrazione, anche favorendo chi vuole integrarsi, chi vuole lavorare, chi vuole costruire famiglia, stando nel nostro paese. E qui arriviamo un po' a un'ulteriore sfida demografica che viene appunto illustrata nel rapporto, è quella di tenere i giovani nel nostro paese, una realtà che sta purtroppo crescendo negli ultimi anni, dei giovani che se ne vanno e non tornano, perché se ne vanno per fare esperienza potrebbe essere un'ottima cosa, ma dovrebbero anche tornare. Invece questa immigrazione dei cervelli all'estero è un'altra emergenza. Giorgio Vitadini, ma ricerca adesso con dei colleghi sui dati Alma Laurea, quindi non su campione ma popolazione, e a 5 anni laureati con le stesse caratteristiche italiane che sono andati via prendono circa 1.000 euro in più dei coetanei che sono rimasti in Italia, con una fortissima valorizzazione del merito, della produttività. Per questo già l'8% dei laureati vanno via e abbiamo paura di pensare che siano i migliori. Allora anche qui, e qui non è che solo l'idea non facciamo fuggire i cervelli, ma paghiamo i laureati, anche perché le piccole e medie imprese italiane, che se invece di risparmiare solo sui costi investono sul laureato pagandolo quello che si deve, secondo me fanno un salto per reggere il tema della globalizzazione. Questo è particolarmente drammatico al sud perché, ripeto, come dicono molti miei colleghi di università del sud, c'è lo spopolamento dei migliori che vengono a studiare a Milano, vanno poi all'estero, e quindi questo venir meno della classe intellettuale futura riguarda proprio le regioni che dovrebbero averne più bisogno. Un'ultima battuta per concludere, Giorgio Vittadini: sentiremo parlare di temi demografici in quella che ormai è una campagna elettorale continua in Italia? Purtroppo spero di sì, ma purtroppo batevo di no. No, nella misura in cui il tema demografico è il classico tema come le infrastrutture. Io la faccio e poi dopo, fra 10 anni, qualcuno godrà di quello che faccio. È come dire, come mi diceva un politico, dice, sai, un funzionario, sai, qui i politici ti chiedono, ma quando si avrà l'esito di questa roba? 7 anni? Beh, allora non facciamola perché... Non serve per il voto. Non serve a noi per essere eletti. Io penso che dobbiamo superare questa visione. Grazie. Per costruire come i nostri padri e nonni per il futuro. Grazie a Giorgio Vittadini di queste riflessioni. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione della Sussidiarietà. Abbiamo parlato con lui del libro Sussidiarietà e crisi demografica, rapporto sulla sussidiarietà 2016-2017, edito appunto dalla Fondazione della Sussidiarietà e curato da Giancarlo Blangiardo. Sono 168 pagine per 14 euro. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.